24 mattino. L'Italia si desta. Di Alessandro Milan. Eccoci qua, sono le 6:33 minuti. Buongiorno e benvenuti in una nuova puntata di 24 mattino. C'è la nostra Miriam Lucchetti dall'altra parte del vetro, sta impazzendo. Ma appena detto non risponde nessuno, quindi siamo io e Peter Bescapè, il nostro alpino in regia. Questo è il bello della diretta, alle 6:30, tutti a dormire, potete andare tutti a dormire. No, ricordatevi sempre, se volete riaddormentare, il consiglio del presidente del consiglio. But please relax. Il consiglio del consiglio. Allora, è pronto il nostro bar? Può aprire la nostra serranda? Nicole Minetti, almeno lei è sveglia? Il caffè volentieri a tutti quanti, offre Nicole Minetti, come sempre. Sentite la nostra moca, chissà se la moca arriva. Arriva il nostro amico Vincino, direttore del male. Buongiorno, ben svegliato. Un buon caffè da Nicole Minetti, lo porta direttamente a letto. È così, Vincino. Nicole... Non vedo nessuno io. No, vabbè, non vede nessuno. Un attimo, arriva, e la casa sarà grande, la moca sta arrivando. Allora, Vincino, devo darle subito una notizia, così, perché sì. L'ha comunicato ieri Berlusconi, forse non si sapeva, ma Berlusconi ha detto che c'è ancora che cosa in Italia, sentiamolo. In Italia noi abbiamo ancora questa negatività, che esiste ancora un partito che si rifà all'ideologia comunista e questo provoca anche una politica che conosciamo, che è una politica dell'invidia, la politica di colpire le classi più abbienti, le imprese, la politica del più spese e più tasse. C'è ancora il comunismo, Vincino. Questo è un disastro. È un disastro. Vabbè. Ci sono i carri armati, frotte di comunisti, no? No, carri armati ancora no, però insomma, ma di prima mattina così alle 6:30, che è successo? Mi devo affacciare fuori, non lo so. Questo era ieri Berlusconi che era intervenuto da Belpietro, da Maurizio Belpietro, non ha ancora sciolto la riserva, mi candido, non mi ricandido, non si sa, cioè mentre di là vanno avanti con le primarie, fanno un po' di no, e Berlusconi invece dice c'è ancora il comunismo, però Renzi, se vince Renzi forse cambia qualcosa. Ma sicuramente vince Renzi domenica prossima, non è che non c'è alcun dubbio. È come in una settimana cambia tutto in Italia. Ah, divertentissimo. Però cioè proprio perché secondo me se uno pensa, vabbè, come dire, poi non voglio influenzare, siamo nella settimana elettorale. Per carità, no. Però le urne non sono aperte, si può dire tutto. Si può dire tutto. Bisogna dare 2 minuti, andiamo avanti nella discussione. In che senso andiamo avanti? No, ma oggi perché fa la vignetta sul foglio? Ci sono poker di Bersani, vedere, giocano a poker, parola di re. Chi ha fatto? Hanno truffato. Ha detto scusa, quella che se mettiamo tutto online, no, ancora non l'hanno messo. Ah, online, questa è fantastica. Oggi Vincino gliela devo dare, sul Corriere della Sera c'è la risposta, perché Renzi ha detto mettete tutti i verbali online. Oggi sa qual è la risposta di tale Nico Stumpo, che è il responsabile delle primarie? È uno del lava spettacolo, Nico Stumpo. Ha risposto così alla domanda del Corriere della Sera di Fabrizio Roncone: senta, Renzi vuole mettere tutto online. Risposta di Nico Stumpo. Questa è la risposta testuale sul Corriere della Sera. C'è una... Non è che sono tante cose, sono quante sono le regioni in Italia? Non so, 20, 25. Le regioni sono 20. No, perché sono 9 milioni di verbali. La risposta di Stumpo è come dire, ma si rende conto Renzi che vuol dire mettere. Sono 9 milioni le cose là. Quanti sono i seggi elettorali? Vabbè, hanno votato in 3 milioni e 100 mila. Sì, ho capito, ma i seggi saranno... 9 mila seggi. Io io metto 30 vignette, 40 vignette in un'ora ogni giorno online, quello. E quindi si può fare, insomma. Assolutamente, ma no, se lo fanno in parecchi. Fidarsi bene, ma non fidarsi meglio, cioè non è che quello, non è che noi stiamo parlando di un paese che prima erano, non so, quanti erano, 4 milioni a quelle di Prodi, sì. E non hanno conservato manco i nomi, sanno di chi erano, sì. No? Cioè, ma sta dicendo che hanno truffato? Sì. Per dire, quella di Prodi era la Calabria, il posto dove hanno votato di più. E, no? E chi è che avrebbe truffato? Cioè, i Bersagnani? E come hanno fatto? Quella è una vecchia abitudine. È una vecchia abitudine italiana, assolutamente. No, ma io sto parlando a quelle di Prodi, a quelle di Verdini. Sì, ricordi quando Veltroni diceva eravamo 3 milioni in piazza ed erano manco a Circo Massimo ed erano manco 100.000? Sì, ma perché doveva dire che siamo 2 milioni e mezzo e sperano 80.000? Sempre cifre spaziali. Se uno la lì c'è la questura oppure gli organizzatori? No, la ma questura. Se uno dice ti do 3 milioni e invece mi dà solo 100.000 lire o 100 euro, no? È un truffatore o no? Sì, ma però no, qui la domanda è capire se hanno occultato dei voti oppure no a queste primarie, perché Renzi che dice voglio vedere tutto chiaro vuol dire che gli sorge il sospetto che ci sia stati dei voti scomparsi, ecco. Ma è come sondaggi, qua secondo me fanno come hanno fatto come sondaggi, guarda, in un certo senso. Non è che hanno un po' arronzato poi dopo le cifre delle arronzato cose, no? cioè, è normale, questa è la politica, lo fanno sempre, dai, la vecchia politica lo fa sempre. L'usato sicuro è sicuro che lo fa, l'usato sicuro. Il 90% dei deputati erano tutti per Bersani, ecco. Sono tutti disperati. Tanto Vincino ti posso presentare un altro ospite, Matteo Salvini della Lega, come eccoci qua Matteo, buongiorno Salvini. Evviva, Vincino, come siamo con la Lega? Oggi vignette sulla Lega? No, non ne fate più di vignette sulla Lega, Vincino. È andata un po' in declino per la satira politica. Ecco, l'accogliamo così, Salvini. Siete un po' in declino, ma per la satira politica. Vi va bene, Salvini? Ci metto la firma per non avere vignette per 6 mesi, per lavorare in pace per 6 mesi ci metto la firma. Ah, bene. E no, qua Salvini si stava discutendo sul fatto delle primarie, perché insomma Vincino dice Renzi vuol vedere tutti i verbali. Il responsabile del PD gli ha risposto con una sonora risata oggi sul Corriere della Sera. La sua risposta è vuol vedere. Parola di re praticamente, pure lui ha detto, assolutamente. Infatti. Salvini, che vista da fuori, ecco, intanto, come la vedete questa storia delle primarie? La invidiate un po', comunque una grande espressione di democrazia, 3 milioni di persone al voto, oppure no? Ma la partecipazione è sempre una buona notizia, non invidio, perché noi almeno a livello di Lombardia abbiamo fatto qualcosa di molto simile non più di un mese fa, con 1800 gazebo nelle piazze lombarde e 320.000 partecipanti, e qualcosa di simile lo rifaremo il 15 e 16 dicembre, magari. Ecco, un elettore del PDL o un simpatizzante del centrodestra degli altri partiti potrebbe invidiarla, anzi spero che appunto anche Alfano e compagnia riescano a fare qualcosa di simile. Poi è chiaro che ci stanno rivalità, ci stanno dubbi, ci stanno insofferenze, però il confronto con i cittadini è sempre comunque positivo. Sempre positivo. Vogliamo sentirlo anche Bersani. Ieri si è voluto togliere un sassolino su questa storia del noi e loro, no? Che Renzi dice sempre noi e loro, e Renzi ha detto, lo ha rimarcato, continuerò a dire fino a domenica noi e loro, ma sentite Bersani come interpreta questo noi e loro. Lui c'ha sempre un po', adesso glielo voglio dire, c'è sempre un po' il difettuccio di dire ma gli viene così, non c'è niente di male, ecco, però va corretto secondo me. Noi e loro. Noi siamo noi, tutti noi. Loro è Berlusconi. Ecco, Però anche Vincino, anche Bersani c'ha allora ancora Berlusconi, come... Sì, ma difatti anche Bersani è un uomo antichissimo in questa cosa qua. Però lui, Bersani, non ha capito che più continua a fare il vecchio padre così, no? Che tratta Renzi come un bambino deficiente, no? Più si scava la fossa totalmente. Ma scava la fossa, ma in testa! È insopportabile questo suo atteggiamento, questa sua cosa. Ma in testa, Vincino, che si scava la fossa? In testa di 9 punti è più probabile che vinca Bersani. Ma che testa di 9 punti? Dove? Sono 5 secondo me. Quindi io tra le 2 cifre, perché mi devo fidare di quelle di Bersani? E beh, però quelle sono quelle ufficiali, cioè nel senso, ufficiali del PD sono 9 punti, però 5 per Renzi. E che succede? Io mi fido di Renzi. E vabbè, però credo che alla fine valgano. Ma Bersani in 20 anni ne ha fatte di imbro. Aveva la segretaria pagata dalla regione Emilia Romagna. No, non diciamo queste cose, che poi c'è un'indagine in corso. È un'accusa. È un'indagine. No, come l'indagine? Questa l'ha detto, Emilia Romagna l'ha detto, no? Che l'avevo delegata là da Bersani apposta, no? Si vedrà, deve rispondere. Passiamo garantisti, dai, facciamo i garantisti, si vedrà. Ma io sono garantista, l'ha detto pure lei che era pagata dall'Emilia Romagna, tutti. Sì, era pagata dall'Emilia Romagna, ma l'accusa è lavorava per Bersani, invece lei ha detto no. No, l'accusa, lei lavorava per Bersani veramente, lo sanno tutti. Lo sanno tutti, niente, ogni giorno io devo scampare dei guai qua. No, ma che guai, no, poi però. Aspetta che se Salvini mi salva, Salvini, fai qualcosa. Cosa e salvami. Però la cosa triste è che ci debba essere il nemico. Allora, questi riesumano Berlusconi. No, il nemico di Renzi sono la Bindi, D'Alema, Veltroni. Il nemico di Bersani sono lo stesso Renzi, Berlusconi. Però io spero che in questi 5 giorni rimanenti, parlando della Lombardia, una proposta che sia una, non so, sull'agricoltura, sulle quote latte, sui genitori separati, sui 3/4 delle tasse da lasciare sui territori, a parte il noi e loro, che può essere stimolante per un militante del PD, ma al resto del mondo non gliene frega nulla se uno dice noi. Se cioè qualcosa di concreto vorrebbe sentire. Per riesumare lo spauracchio dell'avversario come il fazzoletto rosso davanti al toro. Mi auguro che usino questi 4 giorni per confrontarsi appunto sul consumo del territorio piuttosto che sull'autonomia fiscale. Cioè parlare degli elementi concreti. A proposito di riesumazioni, sai Vincino chi viene riesumato oggi? Chi? Arafat. Ma come no? Certo. E io ho scritto anche speriamo non venga candidato in Italia. Cioè, lo riesumano oggi, la salma di Arafat. Speriamo che non venga candidata, no? Assolutamente no, quello è stato avvelenato col polonio, con le cose. Perché, da chi ovviamente? Giura dappertutto, perché quell'altro che lo mandano a Međugorje, hanno mandato Bossi a Međugorje. È vero, Salvini, un commento lo devo chiedere. Boss, Umberto Bossi va a Međugorje l'8 dicembre. Salvini. Io lo invidio. Io sono l'ultimo dei buoni credenti, ahimè, vado a messa 2 volte all'anno e mio figlio che ha 9 anni lo porto in chiesa ad accendere la candelina una domenica ogni 10. Io invidio chi durante il suo percorso di vita si avvicina alla fede, quindi quello non scherza. Ma è vero che è vero che ha fatto questo percorso di avvicinamento, è andato dal Papa, cioè Bossi lo sappiamo, era quello che tuonava contro la Chiesa, il potere temporale della Chiesa. È cambiato in questo? Contro la ricchezza esteriore della Chiesa, ma sempre ha avuto profondo rispetto della Chiesa delle missioni, della Chiesa dei frati, della Chiesa povera, e penso che questo Papa gli piaccia anche per questo. A me piacerebbe una volta nella vita andare a Fatima piuttosto che a Međugorje, piuttosto che a Lourdes. Spero di farlo al più presto. Quindi un boss che invidia. Da mamma a mamma voglio ringraziare il ministro Fornero, perché l'anno prossimo andrò in pensione con poco più di 600 euro mensili, con una penalizzazione di quasi l'8%, perché non ho potuto allattare i miei 2 figli in fabbrica. Fossi stato un uomo e avessi fatto il servizio militare, avrei avuto il mio assegno di pensione intero, grazie. Vorrei dire ai elettori di Vendola e Pupazzo di votare Renzi, per Dio, perché Bersani con apparato che ha dietro non è in grado di combinare niente. Grazie. Viva Bersani, ciao, ciao. Le prossime votazioni, votiamo Alibaba, così almeno i ladroni saranno solo 40, grazie. L'eroe Patrizio Tito Quinzio Cincinnato, nel 431 a.C., dopo aver salvato in 16 giorni la patria in pericolo, rinunciò al titolo e andò a cimentarsi con le difficoltà dei campi. Chi ha orecchie da intendere, intende, e mutatis mutandis, complete e adatte la metafora che è tutta dentro al discorso odierno. Come si fa a votare Bersani? Un tarlucco del genere. Povera Italia. Ha ragione Forchialli, Monti si è un po' montato la testa, non è che può decidere io faccio, ci sarò, non ci sarò, non c'ha mica in Egitto qua, oh, Forchialli for president. Io sono molto contenta che Renzi è il 18 di Bersani, è uno spaccone e basta. Allora, voci della nostra segreteria, siamo con Vincino, direttore del Male, insieme a Vauro, e siamo con Matteo Salvini della Lega. Allora, Vincino ha detto vince Renzi, sicuro. Assolutamente. Anche perché ha solo 5 punti percentuali da recuperare, per Vincino e per Renzi sono 5, sapete, non sono mica 9. No? Per Matteo Salvini chi vince, così un pronostico, o chi vorrebbe che vincesse? Permetto di mettere il naso in casa altrui, vince Bersani. Vince Bersani. Sì, ma ripeto, io ho sentito anche le telefonate degli ascoltatori, sì. A parte quella su Cincinnato che vado a riascoltare. È straordinaria quella, è straordinaria, no. Sembrava una poesia, non una telefonata. Sono contento che si squarci il velo di nebbia che avvolgeva in santità sua eminenza Monti, che adesso si sta rivelando per quello che è. Cioè? Detto questo, cioè un pericolo. Pericolo pubblico. Addirittura un pericolo pubblico, ma ci ha salvato. Ci ha salvato. Ha salvato un par de palle. Rimandate la prima telefonata. Beh, salvare il popolo, salassando il popolo, sono buono anch'io. Da domani vi tasso del 10% e salvo il paese. Quindi ditemi un po' voi. E voi dovete pure dirmi bravo. Però renziani e bersaniani si dividono fra uno è simpatico, uno cos'è un berlucco, l'altro è un montato, sì, un allocco. Sì. Ecco, mi piacerebbe un confronto. Non so, io sono a favore della regolamentazione e tassazione della prostituzione, perché porterebbe nelle casse dello Stato 4 miliardi di euro. Preferisco tassare le mignotte piuttosto che la casa. Sentiamo, su questo argomento voglio subito un parere di Vincino. Vincino. No, come dire, ognuno ha le sue frequentazioni se le tiene da parte, lasciamo perdere. No, la cosa qua veramente, una cosa che non è quella Monti ogni giorno. Cioè, dopo i primi 15 giorni ha fatto finta di governare, negli altri un anno e mezzo sta ogni giorno a dire le sue lodi, quanto sono bravo, quanto sono stato bravo, ogni giorno dice che ci ha salvato, ogni giorno dice che lui è napoletano, è insopportabile. Ma ho capito, ma ne salviamo mezzo, cioè chi salviamo in questa arca di Noè? Io l'ho salvato, Renzi. Salvini potrebbe fare fuori quello che c'è da quel bassetto con i baffi che c'è davanti, no? Assolutamente. Non dico il nome, lo devi dire tu. Io perché chi è il bassetto? Come si chiama quello là? Chi è? Quello sotto sicuro della Lega, quello là, l'avvocato dell'Avon là. Chi è? Io non lo so. Quello che si lodava e si imbrodava in maniera insopportabile. Io non, con quel sorrisetto. Non lo so chi è. Chi è? Che ruolo ha nella Lega? Il più grande ministro degli interni di tutti i tempi e il prossimo governatore della Lombardia, dall'epoca, il più grande ministro degli interni, guarda, Tigellino. L'ha detto Saviano, l'ha detto Saviano, non lo dice Salvini. L'ha detto Salvini. Vabbè, ma Salviano è un altro cretino di quelli mondiali, ma scusa una cosa, a me che uno dei grandi ministri degli interni mi sono sempre stati proprio... Così, cioè, ho capito il ministro dell'interno, che vuol dire Vincino tutti i ministri dell'interno? Che è una bella cosa essere un grande ministro degli interni, è uno stronzo mondiale un ministro degli interni, secondo me. Adesso che vuol dire che vuol dire Vincino, cioè, il ministro degli interni ha un ruolo, c'è i grandi ministri degli interni, Tigellino, questi sono Maroni, che ne so, un grande ministro, c'è un complimento questo, un grande ministro degli interni, no? Vabbè, Salvini dice ha fatto il ministro degli interni e l'ha fatto bene, ecco. E Salvini dice ha fatto il ministro dell'interno e l'ha fatto bene. Ma perché? Chi lo dice che l'ha fatto bene? Perché Salvini, Saviano. Saviano, Volete dire la vostra? 02-4652-4492. Chiamateci e parlate con la segreteria telefonica di 24 Mattino. 02-4652-4492. E ricordate, Alessandro Milan vi ascolta. È martedì 27 novembre, i titoli, molte le aperture sul caos Ilva, nuovo sequestro e l'Ilva chiude, così titola il Sole 24 Ore in prima pagina per il Corriere della Sera, l'Ilva chiude 5.000 a casa, il Messaggero, l'Ilva chiude, caos a Taranto, per la Stampa, dramma Ilva, 5.000 a casa, il Secolo XIX, nuovi arresti, l'Ilva chiude. E poi il Fatto Quotidiano, rappresaglia, l'Ilva chiude, ora Bersani restituisca i soldi a Riva, cioè il proprietario dell'Ilva. Ilva, prova di forza, questo per Avvenire, mentre c'è chi sceglie le primarie con il ballottaggio, Repubblica, Bersani-Renzi, duello finale. Libero, abbiamo votato 3 volte, primarie farsa, ecco le prove. Un giornalista di Libero ha votato 3 volte nel giro di poche ore. Il Giornale invece, Sallusti agli esteri, agli arresti. L'Unità, la sfida ricomincia da 9, dunque le primarie, il ballottaggio. Pubblico invece mette insieme una doppia apertura, sregolati, e ci sono Renzi e Bersani, la lite sulle regole. E l'Ilva, cancellati, chiusa l'Ilva a Taranto. Il Manifesto invece apre, siamo qui, è un'apertura dedicata a loro stessi, nel senso che è nata una nuova cooperativa che dice può aiutare a continuare ad andare in stampa la notizia siamo noi, anche se in prima pagina c'è grande risalto a Rossana Rossanda, 88 anni, che lascia il Manifesto, è la fondatrice, uno dei fondatori del Manifesto. Nessun dialogo, me ne vado dal Giornale, 88 anni, e questo crea ovviamente dibattito anche sugli altri giornali. Voglio partire da una notizia che troviamo sul Corriere della Sera, pagina 23. È una notizia che, se confermata, può essere magari poca cosa in termini di soldi, ma può essere un piccolo concreto aiuto per moltissimi italiani. Bonus babysitter alle neomamme. Di che cosa si tratta? È un contributo che il governo sta studiando per vedere se metterlo in pratica. Dal 2013 un contributo per le lavoratrici. 300 euro al mese fino a 6 mesi. Ne parla Lorenzo Salvia, pagina 23 del Corriere. Alle mamme che corrono tutto il santo giorno cercando di incastrare ufficio, scuola dei figli, spese varie ed eventuali, l'affermazione potrà sembrare fuori luogo, ma uno dei problemi dell'Italia è che le donne lavorano poco. Meglio, sono poche quelle che hanno un lavoro, il 46% contro il 58% della media europea. E allora, per provare a invertire questa tendenza, a favorire il rientro nel mondo del lavoro al termine del congedo di maternità, il governo è pronto a sperimentare un bonus per babysitter e asili nido. Si tratterebbe di un contributo di 300 euro al mese per un massimo di 6 mesi, quindi al massimo 1.800 euro, che potrà essere utilizzato a partire dal 2013 dalle madri lavoratrici nel primo anno di vita del bambino. Non si tratta di un versamento una tantum come fatto in passato, ma di una somma che dovrà essere utilizzata solo o per pagare l'asilo nido, e il versamento sarà fatto direttamente dallo Stato, oppure la babysitter. In questo caso verrà utilizzato il meccanismo dei voucher, i buoni per i lavoratori, per i lavori occasionali. Quindi non è che danno soldi alle famiglie che poi li spendono in qualche modo. Nel caso viene direttamente lo Stato, paga l'asilo nido per 6 mesi, fino a 300 euro al mese, per un massimo di 6 mesi, appunto. Questa è l'idea del bonus per l'asilo nido o il bonus per la babysitter, se uno lo vuole spendere per la babysitter. Può davvero essere poca cosa o può essere un incentivo per fare rientrare più velocemente le tante mamme che poi si trovano escluse dal mondo del lavoro perché è una società fatta così, cioè male. a voi la risposta. Certo, questo è allo studio del governo, scrive il Corriere della Sera. Voglio parlare poi ancora di Sallusti. Sallusti non agli esteri, come ho erroneamente letto il titolo del giornale, ma Sallusti agli arresti. È arrivata ieri la esecuzione della pena agli arresti domiciliari. In realtà la Procura di Milano ha deciso, va ai domiciliari. Oggi Alessandro Sallusti fa un duro editoriale, come ne ha fatti di recente sul suo caso. Parla di ordine di carcerazione nel quale si vogliono alleggerire la coscienza, basta leggere le due paginette con le motivazioni per capire che il povero Bruti Liberati, che è il capo della Procura di Milano, abbia dovuto arrampicarsi sui vetri per evitare di mandarmi in galera. Dovrei ringraziarlo, ma non lo faccio, perché il solo dubbio che qualcuno mi abbia aperto una corsia preferenziale rispetto alla strada su cui ogni anno vengono avviati migliaia di disgraziati nelle stesse mie condizioni legali mi farebbe orrore. Se poi questo avviene per salvare la faccia della categoria dei miei aguzzini, peggio mi sento. Poi nell'editoriale Alessandro Sallusti se la prende soprattutto con il Corriere della Sera e con un giornalista del Corriere della Sera che spesso cito, che conosco anche personalmente, vale a dire Luigi Ferrarella, che dice parla di me senza neanche il coraggio di nominarmi, una pratica vigliacca in voga al Corriere fin da quando titolarono gambizzato un giornalista per raccontare l'agguato a Montanelli, il cui nome fu omesso dal titolo. Tra l'altro c'è un retroscena su dove Sallusti andrà ai domiciliari molto probabilmente, vale a dire a casa di Daniela Santanchè, la sua compagna. Ebbene, Fabio Poletti sulla Stampa, con anche tanto di foto a corredo dell'articolo, racconta di questa casa Santanchè a pagina 17, un domicilio da 920 metri quadri con piscina coperta e letto king size. Fabio Poletti: questa casa non è un albergo, al massimo una galera, assai comoda con i suoi 920 metri quadri, quattro piani, annessa piscina coperta, rivestita in madreperla. Lì passerà molto probabilmente i prossimi 14 mesi da Daniela Garnero, ex Santanchè, la sua ospitale compagna, la detenzione Sallusti. E tra l'altro c'è una descrizione poi più avanti nell'articolo della casa dove vive il figlio anche di Daniela Santanchè, che qualche malelingua si ostina a chiamare Lorenzino il Magnifichino. Tra la camera da letto con il letto king size rivestito da coperta di lince, il dechirico sul caminetto, le poltrone di coccodrillo australiano, il tablet coffee rivestito di pelle di zebra, dove fare colazione la mattina insieme alla mazzetta di croccanti quotidiani. Vabbè, insomma, io l'ho anche twittato e qualcuno mi ha scritto: ma che è, un safari o una casa? Tra coperte di lince, pelle di zebra e poltrone di coccodrillo australiano, insomma, il paradiso proprio degli animalisti, chiameranno Daniela Santanchè da oggi a maggior ragione. Questo sarebbe il domicilio a 920 metri quadri dove Sallusti dovrebbe scontare i 14 mesi di detenzione ai domiciliari. Allora, la notizia con cui aprono quasi tutti i quotidiani o molti quotidiani è la chiusura dell'Ilva a Taranto. Che cosa è successo? È stata ieri una giornata convulsa, come racconta Domenico Palmiotti sul Sole 24 Ore, pagina 3. C'è stata la procura che ha chiesto l'arresto di 7 persone, alti dirigenti dell'Ilva, e allora l'Ilva poi in tarda serata, in tardo pomeriggio, ha fermato la produzione. Ora la situazione ovviamente è di possibile tensione sociale, perché da stamattina ovviamente abbiamo sentito i lavoratori sono in sit-in davanti all'azienda. Scrive Palmiotti a pagina 3 del Sole: l'Ilva è con le spalle al muro, non solo per i nuovi arresti scattati ieri che falcidiano ulteriormente i vertici proprietari, non solo per l'avviso notificato al presidente Bruno Ferrante, indagato a piede libero, quanto per il sequestro dei prodotti finiti disposto con una nuova ordinanza dal GIP Patrizia Todisco. Non potendo più spedire coils e lamiere, ora bloccati dalla Guardia di Finanza, da ieri sera l'azienda ha fermato gli impianti dell'area freddo, annunciando anche la chiusura di tutti gli altri stabilimenti che dipendono dalla produzione di Taranto. E dunque a casa in 5.000 tra tubifici, rivestimenti, laminatoio a freddo, treni nastri, treni lamiera, sono i reparti non sequestrati per i quali l'azienda aveva chiesto giorni fa il ricorso alla cassa integrazione per 2.000 persone a causa della crisi di mercato. Tra l'altro, sul Sole 24 Ore c'è anche una cifra impressionante, è un calcolo fatto dal Centro Studi Confindustria Puglia. Lo stop dell'acciaieria costerà 9 miliardi di euro. Daniele Lepido racconta che non serve scomodare la teoria del caos, il famoso effetto farfalla, per capire che la chiusura dello stabilimento genererà sul sistema produttivo italiano un effetto domino dai costi rilevanti. A quantificare tutto in una cifra è Federico Pirro, docente di storia dell'industria e responsabile del Centro Studi Confindustria Puglia. Su una produzione di 8,8 milioni di tonnellate, l'Ilva impegna sul mercato interno 5 milioni e mezzo di tonnellate, il 40% del fabbisogno nazionale. Sono quantità che, se venissero a mancare, dovrebbero essere sostituite con altre importazioni, che già oggi sfiorano i 10 milioni di tonnellate. Insomma, si arriva a un calcolo definitivo di circa 9 miliardi di euro di costo. Un impatto negativo che vale il 7-8% del PIL dell'intera regione Puglia. Il governo reagisce con un tavolo, è stato convocato giovedì, con un'intervista al messaggero del ministro dell'Ambiente Clini, che trovate a pagina 3. Intervistato da Carlo Mercuri, dice il ministro: la procura è responsabile dei rischi. Voglio dire chiaro che chi oggi si assume la responsabilità di chiudere l'Ilva a fronte dell'autorizzazione integrata ambientale che il ministero ha rilasciato, si assume la responsabilità di un rischio ambientale che potrebbe durare anni e potrebbe essere non risanabile nel breve periodo. Al che, insomma, l'accusa è alla procura. Il procedimento giudiziario che riguarda l'Ilva è appena avviato, il contenzioso è tale che questa situazione può rimanere paralizzata per anni, dice il ministro Clini. Nel frattempo, accanto ai problemi ambientali, si aggiungono pure quelli sociali. Stavolta, chi vuole assumersi questa responsabilità deve sapere esattamente che responsabilità si assume. Il problema è che, nello spulciare le carte, secondo i magistrati, le carte... che cosa avrebbero svelato? Svelerebbero un sistema architettato dall'industria, da Ilva, per cercare di annacquare in qualche modo i controlli sull'inquinamento. Nelle carte dell'inchiesta c'è anche questa telefonata, shock, come scrivono tutti i giornali, intercettazione shock, due casi di tumore in più, e cosa vuoi che sia? Pagina 3 della Stampa, Guido Ruotolo. Fino a ieri sera lo davano in Algeria o in America, tra l'altro Fabio Riva, che è colpito da ordinanza di custodia, si trova in questo momento all'estero e dunque è ricercato anche lui come altri indagati per le accuse di associazione a delinquere, corruzione, reati ambientali. Molte le telefonate intercettate, una di queste l'avvocato Perli e Fabio Riva parlano e Fabio Riva dice: mette molto tranquilli la lettera della Porta rispetto alla pagina 25-26 di quel matto di Assennato, che era il presidente dell'ARPA Puglia. Due casi di tumore in più all'anno, una minchiata. Questa è la frase shock che viene riferita da tutti i giornali. Ma dalle intercettazioni, dalle carte, c'è anche tutta una rete di rapporti che l'Ilva, attraverso il suo rappresentante per i rapporti istituzionali, Archinà, teneva con i politici. E in queste carte, scrivono i giornali, ci sono tutti. C'è Vendola, molto citato, perché era il capo della regione. Secondo il GIP, Vendola stesso secondo il giudice fece pressioni per cambiare il vertice dell'ARPA, cioè l'Agenzia Regionale per l'Ambiente Puglia, che non era favorevole all'Ilva, secondo la stessa Ilva. Vendola si difende dicendo: ho fatto una telefonata, avevo rapporti con il responsabile delle relazioni dell'industria, perché è il responsabile delle relazioni istituzionali dell'industria, quindi è vero, in qualche caso ci siamo sentiti per telefono. C'è anche una lettera per Bersani, come racconta tutti i giornali, per esempio sul Fatto Quotidiano a pagina 3, le richieste a Bersani e le promesse a Vendola, racconta Antonio Massari. C'era una lettera che l'Ilva avrebbe studiato, è stata trovata, pare, sulla mail del responsabile delle relazioni istituzionali Archinà, una lettera nella quale si voleva in qualche modo placare e bloccare il senatore del Partito Democratico Roberto Della Seta, che spingeva sul governatore della Puglia Vendola per frantumare il presidente dell'ARPA Puglia Giorgio Assennato. Ebbene, il senatore del PD della Seta si oppone a un disegno di legge che agevola l'ILVA sulle emissioni di benzopirene e dunque Fabio Riva parla con il padre Emilio Riva e gli dice: Archinà, cioè il responsabile della redazione istituzionale, vuole che lui faccia una lettera a Bersani in merito a queste polemiche. Dice che il senatore della Seta ha detto delle falsità assolute, che Berlusconi ha fatto un regalo all'Ilva e aggiunge che la lettera serve per dire a Bersani di non fare il coglione. Questo è nello scambio di mail tra Fabio Riva o di telefonate, comunque di intercettazioni tra Fabio Riva e il padre Emilio Riva. Insomma, questo secondo l'accusa, secondo i giudici, dunque era tutto un sistema per fare pressioni per cercare di modificare i dati sull'inquinamento. In ogni caso la vicenda ovviamente è complessa e la vicenda ha anche delle ricadute immediate. C'è la chiusura dello stabilimento, ci sono appunto gli operai e vi terremo costantemente aggiornati, che ovviamente si ritrovano dal giorno alla notte senza di fatto poter lavorare, quindi anche su uno stipendio, e quindi un rischio anche di tensione sociale non indifferente. In tutto questo la politica discute di che cosa? Beh, discute intanto del ballottaggio di domenica. Si decide con il ballottaggio tra Bersani e Renzi chi sarà il leader, il candidato premier per il centro-sinistra. È caccia aperta a 250.000 voti chiave, così titola il Corriere della Sera pagina 8, mentre oggi Libero fa un'accusa circostanziata e dice: le primarie del centro-sinistra sono una farsa, ecco le prove. Un nostro giornalista che documenta tutto a pagina 2, Luciano Capone, ha votato 3 volte nel giro di poche ore. Ecco come ho votato 3 volte. Agli elettori fuori sede non venivano controllati i documenti. Un nostro cronista ha seminato preferenze tra Milano e Monza. Ai seggi l'unica regola ferrea era una: pagare 2 euro. Questo articolo lo trovate a pagina 2 di Libero sotto la dicitura primarie taroccate. Ci sono anche le 3 schede di Luciano Capone con i 3 tagliandini come dimostrazione di avere pagato, di avere votato 3 volte. Certo, è proprio sulle regole che ieri anche qui ai questi microfoni il responsabile per le primarie di Renzi, Roberto Reggi, ha detto: bisogna cambiare questa regola che impedisce di votare al ballottaggio chi non ha votato al primo turno. C'è tempo per cambiare questa regola. Dalla parte invece del Partito Democratico si dice: insomma, le regole sono queste, sono state controfirmate da tutti, le regole non si cambiano. Ma è questo su cui punta, per quel che riguarda la regola, Matteo Renzi: domenica alle urne anche chi non ha votato, i renziani, troppi ostacoli alla partecipazione, così a pagina 4 di Repubblica. E in qualche modo è molto interessante l'intervista che fa Nico Stumpo a Fabrizio Roncone sul Corriere della Sera. Chi è Nico Stumpo? Beh, è il responsabile organizzativo nazionale delle primarie, quindi è colui che ora deve vigilare dall'alto che tutto avvenga in maniera regolare. E allora il duello sulle regole, ecco Nico Stumpo: guardi, non può esserci confusione perché tutto è già scritto da tempo nel regolamento, però i renziani hanno copia del regolamento e basta che lo leggano, quindi saranno ammessi al voto, al ballottaggio, gli elettori che hanno votato al primo turno e tutti coloro che avevano già effettuato la registrazione entro le 20 di domenica scorsa e che però non hanno esercitato il diritto di voto. Poi però c'è una delibera, la numero 21, che dice: possono tuttavia partecipare al voto coloro che dichiarino di essersi trovati per cause indipendenti dalla loro volontà l'impossibilità di registrarsi entro domenica scorsa. Ecco, spieghi bene questo passaggio, chiede Roncone a Stumpo, e Stumpo fa un esempio. Per esempio, se arriva uno e sostiene di essere stato a New York, e già gli si potrebbe dire che a New York i computer ci sono e avrebbe potuto registrarsi online, comunque se arriva uno e dice: scusatemi, ma ero a New York, ecco, questo signore deve fornirci almeno i biglietti dell'aereo. Beh, insomma, sarete rigidi. Siccome queste primarie sono una cosa seria, saremo seri. A quel punto, dice Roncone, arriva un bip sul telefono di Stumpo. È un'agenzia in cui Matteo Renzi polemizza con Bersani proprio su problemi verificatisi a suo sostenere durante lo spoglio dei voti. Ecco qui, sbotta Stumpo. Legga, cosa vuole Renzi? Vuole cambiare le regole? Non si possono cambiare le regole a piacimento. Vuole i dati ufficiali dopo nemmeno 15 ore? E nemmeno questo si può fare. E qui c'è la domanda topica e la risposta topica. Beh, Renzi chiede che siano pubblicati online i verbali dei 9.000 seggi. La risposta di Stumpo è codesta. Ecco, questa è la risposta di Stumpo. Beh, insomma, Renzi è un tipo tignoso. Sì, ma io le dico, sa cosa significa mettere in rete 9.000 verbali? Tecnicamente serviranno giorni e giorni. Ecco qui dunque Nico Stumpo sul Corriere della Sera, l'inflessibile in viaggio all'estero, portateci i biglietti. Questo è il titolo dell'intervista, con quella grassa risata alla domanda di Renzi di pubblicare tutto. Dall'altra parte invece nel centrodestra, lo diciamo da giorni effettivamente, è tutto un'attesa a cercare di capire, tutti appesi a capire Silvio Berlusconi che farà. Ormai è abbastanza certo che non deciderà, ieri ha fatto un'intervista in diretta ma non ha sciolto la riserva, sto pensando se candidarmi. Si sta pensando da un po' di tempo, ma ormai è chiaro, dicono tutti, che non deciderà certo prima di aver capito chi sarà il vincitore nel centrosinistra e quindi chi sarà l'eventuale avversario politico con cui confrontarsi. Se sarà Bersani prenderà una decisione, se sarà Renzi ne prenderà probabilmente un'altra. E quello che invece scrive il Sole 24 Ore, perché è un po' il tema che tratteremo anche noi alle 8.30, è questo: Berlusconi punta sul Porcellum, eccolo qui. Barbara Fiammeri a pagina 20 del Sole: la conferma dell'attuale legge elettorale per favorire il ritorno a Forza Italia. Secondo il Sole, Berlusconi è uno di quei rappresentanti politici che punta a mantenere il Porcellum, soprattutto perché per le liste bloccate, perché così può decidere chi mandare in Parlamento, come nell'ultima tornata elettorale hanno potuto fare tutti i partiti per via di questa riforma che non si fa, la riforma elettorale. Io ripeto, ironicamente metto, siamo alla 95esima settimana decisiva, la cifra è enfatizzata, non siamo mica, non è che le ho contate da 95, ma arriveremo presto a 100. Il tema è che questa riforma elettorale non si fa, e tra l'altro c'è un deputato da 85 giorni sciopero della fame, Roberto Giachetti, un po' tra il silenzio e l'indifferenza anche dei media, sarà nostro ospite alle 8.30. Ma non è solo l'unica incertezza all'interno del centrodestra. Che fa Berlusconi? Fonda allora Forza Italiani, Forza Italia 2.0? Pare che giovedì possa essere una giornata dell'ufficio di presidenza e dunque decisiva. Quello che si sa secondo il giornale è che Alfano chiede a Verdini di dimettersi. C'è un po' un red d'azione all'interno del partito con Denis Verdini, considerato uno dei più stretti alleati invece politici di Berlusconi. L'accusa è: stai lavorando contro il PDL. Ma certo è caos nel partito, lo stesso giornale lo scrive, tutti si chiedono se faranno parte della nuova Forza Italia oppure no. Questo per quel che riguarda il centrodestra. Di cronaca segnalo una frase che detta da Fabio Fazio da parte del Premier Monti, e magari anche un po' condivisibile, sul mondo della scuola, ha invece scatenato un putiferio di polemiche, perché Mario Monti, come ricorda il Secolo XIX a pagina 7, intervistato da Fabio Fazio, ha parlato di alcune sfere del personale della scuola nel quale c'è grande conservatorismo e indisponibilità a fare anche 2 ore in più alla settimana che avrebbero permesso di aumentare la produttività. Corporativismi che spesso usano anche i giovani per perpetuarsi. Ecco, magari il difetto di Monti è che lo dice con parole che sembrano molto accademiche, molto senza alcuna inflessione, ma sono accuse molto, molto forti. Cioè sta dicendo che in alcune sfere del personale della scuola c'è un conservatorismo, indisponibilità a fare anche 2 ore in più a settimana, l'utilizzo dei giovani per perpetuare questi corporativismi. Parole molto dure, infatti il mondo della scuola, forse parole anche condivisibili per molti, il mondo della scuola si è arrabbiato. La rabbia dei docenti per la frase del premier Corrado Zunino su Repubblica: la scuola è il collasso. C'è anche una sorta di marce di mail bombing, per esempio al ministero. Sapete che già era finito sotto accusa il ministro Profumo, che aveva usato questa frase di usare il bastone e la carota. Ebbene, questa ultima uscita del professor Monti, scrive Zunino, più che una gaffa sembra un intimo pensiero ora pubblico di queste spinte conservatrici nel mondo della scuola. E qui ecco che la scuola si è molto arrabbiata. Gli insegnanti, in 43 secondi di diretta Rai, sono diventati un esempio di freno alla modernizzazione, alla produttività, pronti a usare i loro studenti per mantenere i privilegi. Non poteva dunque che deflagrare la bomba, nel senso dal punto di vista della polemica, con il mondo della scuola che si difende. A proposito di Fabio Fazio, c'è una polemica che riguarda invece Luciana Littizzetto. La COP non sei tu, sapete che fa la pubblicità della COP, e alcuni sindacati della COP si sono arrabbiati. Cara Luciana, la sigla confederale dell'USB, storicamente più combattiva, anche se minoritaria, gli ha mandato una lettera. La COP non sei tu, siamo noi, siamo donne lavoratrici, madri, che la COP la fanno tutti i giorni. Insomma, la COP non sei tu, l'ira di alcune dipendenti per Luciana Littizzetto. Ma io voglio chiudere, che ho un minuto, con questa vicenda davvero incredibile, incresciosa. Avete sentito anche la nostra Raffaella Calandra nel giornale radio. Avete sentito le urla delle pompe funebri che si sono contesi, rappresentanti delle pompe funebri, i sei cadaveri, i sei corpi dei braccianti uccisi rumeni sui binari in Calabria. Pompe funebri, botte per i cadaveri. E voglio leggere la maca di Michele Serra, che è dedicata a questa, su Repubblica. La rissa tra titolari di pompe funebri: sono tutti miei, no, facciamo una testa, che si contendono fisicamente con urla e spintoni i cadaveri dei sei braccianti stagionali rumeni travolti a Rosarno, ci ricorda da quali spelonche, da quanto abbruttimento proviene la bestia umana. Non è vero che episodi come questo, che vedono il subumano prevalere sull'umano, siano attribuibili, come a volte usiamo fare, al deterioramento del tessuto sociale. Siamo deteriorati anche da prima, da molto prima. Veniamo dalla fame, dalla ferocia, dal saccheggio, dallo stupro. E lo sgomento che ci provoca una contesa tra sciacalli attorno a sei cadaveri, di fronte a amici e a parenti, scaturisce dalla rimozione. Ce ne eravamo dimenticati che siamo bestie, anche grazie a quel poco di civilizzazione che si è stati capaci di mettere in moto nei secoli. Ogni tanto ci tocca ricordarlo, inorridire, guardando lo sbrego prodotto da pulsioni antiche che si impennano. Bene sarebbe, in questi casi, memorizzare meglio, fare mente locale. Così come esistono le medaglie d'oro al valor civile, assegnare medaglie di fango al valore incivile. Un po' di meritocrazia aiuta a educare. Così Michele Serra su questa vicenda davvero incredibile. Guardatevi le immagini, le urla di persone, delle pompe funebri che si contendono davanti a parenti e amici le salme da tumulare di questi braccianti rumeni. Allora, con noi, e voglio salutarlo subito, c'è Giorgio Gori. Buongiorno e benvenuto, Gori. Buongiorno, buongiorno. Allora, se lo devo, vediamo in tre righe se riesco a farne la biografia: imprenditore fino al 2001, lunga carriera a Mediaset, poi fondatore della Magnolia e da un anno circa, più o meno, consulente di Matteo Renzi. No, non sono un consulente di Matteo Renzi, sono uno che si è messo a servizio di un progetto politico. La definisco così, spin doctor. Ecco, non quella roba lì. Non quella roba lì. Vabbè, comunque, le chiedo questo: come fa Matteo Renzi a recuperare 9 punti percentuali da qui a domenica? Ma insomma, deve cercare di continuare a dire quello che ha detto in questa campagna elettorale, con forza, con atteggiamento positivo, come ha mantenuto per tutta la campagna elettorale, e deve cercare di mettere a fuoco degli argomenti che secondo me possono convincere tanto alcuni elettori che hanno scelto Bersani al primo turno, tanto quelli che hanno scelto Vendola, e secondo me non ne mancano. Forse l'argomento principale nei confronti di chi al primo turno ha scelto Bersani è che con Bersani lo schieramento di centrosinistra, come dicono tutti i sondaggi, la prossima primavera forse si affermerà, ma difficilmente il risultato che otterrà sarà sufficiente per governare. I sondaggi dicono che il centro-sinistra governato da Bersani arriverà intorno al 35%, e questo perché ha difficoltà a raccogliere elettori fuori dai suoi tradizionali confini. Sì. Viceversa, il centro-sinistra guidato da Matteo Renzi ha una capacità di sfondamento verso l'elettorato più moderato, chiamiamolo così, che gli consentirebbe di arrivare molto più in alto, cioè intorno al 44%. Quindi è una garanzia di governabilità, affermazione tale da non dover poi andare a sommare i voti di questo partito, questo per il futuro, però lo scoglio maggiore è tra quattro giorni. Si sceglie adesso, e quindi secondo me questa è la riflessione che gli elettori di centrosinistra devono fare, perché devono già guardare alla primavera prossima. E agli elettori di Vendola invece farei notare, è un argomento in qualche modo parente di questo, che Bersani ha proposto già in queste settimane per il futuro un'alleanza, per esempio, con l'UDC di Casini come schema di gioco. Lui dice: noi organizziamo il campo dei progressisti e poi ci alleiamo con i moderati. Ora, le ragioni, gli argomenti del partito di Casini sono spesso in profonda, totale contraddizione con il punto di vista degli elettori di Vendola, soprattutto in materia economica e di diritti civili. Quindi io vedo molto complicato per un elettore di Vendola scegliere oggi una prospettiva di alleanza con un partito che ha ragioni così diverse. Però sembra anche complicata un'alleanza, o comunque andare a pescare nel bacino degli elettori di Vendola sulle tematiche del lavoro, per esempio, sono due persone che sembrano agli antipodi dal punto di vista politico. No, io conosco molti elettori di Vendola, molti ragazzi che hanno scelto Vendola perché rappresenta in qualche modo un'istanza libertaria di forte rinnovamento, e questi sono argomenti che li rendono vicini a noi e alle posizioni di Renzi, soprattutto nelle grandi città dove il partito di Vendola ha raccolto un buon consenso. Io credo che sia soprattutto un elettorato di opinione, non un elettorato organizzato, e quindi sensibile agli argomenti di rinnovamento che Matteo propone. Senta, domani c'è il faccia a faccia in TV, lei di TV un pochino se ne intende, come dire. Che deve fare Renzi e che errore non deve commettere? Ma io credo che non ci siano dei segreti particolari, Matteo è stato molto efficace anche nel confronto su Sky, e io credo che lo sarà domani sera. È chiaro nell'esposizione, diciamo che proprio una delle differenze che la gente nota è un tentativo di farsi capire, non ci sono grandi segreti di comunicazione, in questo caso l'unico segreto è cercare di parlare una lingua che capiscono tutti quanti, e quindi secondo me questa sarà l'arma più efficace. Per esempio, dire noi e loro è una strategia comunicativa efficace, perché Bersani dice loro sono Berlusconi, noi e loro, siamo tutti nello stesso partito, se Renzi si considera all'interno di questo partito. Noi ci consideriamo assolutamente all'interno di questo partito, ma è anche vero che l'apparato del partito si è schierato al, credo, 97% per Bersani, ha determinato delle regole di queste primarie che non ha voluto discutere con noi, che ci ha fatto trovare precotte, è indisponibile oggi a modifiche che sono dettate soltanto dal buon senso, e quindi esiste in qualche modo pur all'interno della stessa famiglia, perché loro lo stanno. Però anche questo, le regole sono state fissate, le regole, come si fa? Cioè, voglio dire, anche voi le avete accettate vostro malgrado, però sono queste. No, le abbiamo contestate dal primo giorno, tant'è che abbiamo ottenuto una serie di cambiamenti. Vi ricorderete che, per esempio, all'inizio era stato detto che le firme che agli elettori è richiesto di fare al seggio sarebbero state poi pubblicate in qualche modo, sarebbero state rese pubbliche, il garante per la privacy ha dato ragione a noi, hanno dovuto accettare la registrazione online che in un primo tempo avevano negato. Oggi il tema è che secondo loro, e permettetemi di dire al secondo turno debba votare soltanto chi ha votato al primo turno, salvo quelli che possono esibire giustificati motivi per non aver potuto. Però non è secondo loro, è secondo la regola che bene o male regola che non ha senso, perché in Francia Hollande tra il secondo turno ha ricevuto 500.000 voti più che al primo, c'è un sacco di gente che oggi vuole dare il proprio consenso a Bersani o a Renzi, non lo so, domenica, e che non ha senso tenere fuori dai seggi. Noi chiediamo soltanto che sia possibile registrarsi come è stato fatto la prima volta, quindi sottoscrivendo l'appello degli elettori del centrosinistra e tutto il resto fino a domenica, e che sia possibile farlo anche online. Ma c'è possibilità che entro domenica cambi questa regola? Cioè, secondo me le possibilità sono un po' ridotte. Oggi Nico Stumpo, che è responsabile delle primarie, in un'intervista lunga al Corriere della Sera dice: ma le regole sono quelle, anche i renziani le guardino, sono quelle, punto e basta, ecco. sono regole dettate dalla paura, come quella di voler tenere i sedicenni fuori da questa tornata di voto. I sedicenni possono iscriversi al partito, eleggere il segretario, votare alle primarie per la regione Lombardia, ma non hanno potuto votare a queste primarie. Mi spiegate qual è la razza? Mm. È così per la registrazione sul secondo turno. Comunque voi chiedete e sperate ancora in una modifica, almeno nella possibilità di far votare anche chi non ha votato al primo turno, senza certificati, senza documenti, senza dover dimostrare nulla. No, facendo esattamente quello che abbiamo fatto tutti per il primo turno, cioè andandosi a registrare o fisicamente o online, sottoscrivendo l'appello degli elettori del centro-sinistra e andando a votare. Che ragione c'è di tenerli fuori? Il voto è stato regolare, perché Renzi dice noi siamo dietro di 5 punti, non 9. È un modo di dire c'è qualcosa che non torna. Ma noi abbiamo semplicemente chiesto che siano messi online i verbali di tutti i seggi. Mi sembra una regola di trasparenza che toglierebbe qualunque tipo di possibile speculazione. Non abbiamo parlato di brogli, non è questo il tema. Anche qui però, mi scusi, stumpo. Le elezioni di uno schieramento di un partito che aspira così a praticare trasparenza nelle istituzioni pubbliche, nella pubblica amministrazione, debba qualificarsi per trasparenza. Sa sul Corriere oggi sempre Nico Stumpo a questa richiesta di mettere 9.000 seggi online, risponde così, testuale, so che non è un audio, ma risponde così al Corriere della Sera Fabrizio Roncone. Ecco, questa è la risposta. Vabbè, perché dice ci vorrebbero giorni e giorni, ma si rende... Si commenta da solo. Senta, lei, vabbè, invece Berlusconi non lo so che non lo conosce, non lo sente più da tempo, dal 2001 quando è uscito da... Però vede che Berlusconi lo osserverà anche lei dall'esterno, insomma è un po' ondivago, come dire, per usare un eufemismo. Lei che idea si è fatta? Se entrasse un attimo ancora nella testa di Berlusconi, nel Berlusconi che ha conosciuto, che ne pensa di quello che è il suo atteggiamento al momento? Penso che Berlusconi fatichi a uscire dal ruolo che si è ritagliato in questi anni. Ha vissuto la politica e il suo partito come una cosa sostanzialmente di proprietà e non accetta oggi che qualcun altro si faccia avanti. In questo modo, secondo me, sta facendo davvero il male del centrodestra. E io credo che però una responsabilità ce l'abbiano anche i cosiddetti giovani del PDL, perché non possono aspettare che lo spazio sia loro concesso. Matteo Renzi ci ha messo la faccia, ha lanciato una sfida a viso aperto, anche Alfano pare. Alfano ogni di 2x3 però si ferma, basta che Berlusconi faccia una mezza dichiarazione a Milanello e Alfano dice beh allora forse adesso non si fa più. Io credo che ci vuole coraggio in qualche modo in politica. Renzi l'ha avuto, se lo avesse anche qualche esponente del centrodestra, secondo me tutto il panorama politico italiano ne guadagnerebbe. Ma alla fine, visto che lei un pochino lo conosce nell'intimo, si candiderà o non si candiderà? Scenderà in campo nuovamente oppure no? Io credo che aspetti il risultato di domenica. Questo se vincerà Bersani, se vincerà Bersani sarà molto probabile che Berlusconi si ricandidi e a questo punto credo che gli italiani avranno di fronte un'alternativa di voto per la primavera prossima che potrà dare qualche spazio di più a Beppe Grillo e alla protesta. A questo proposito, se dovesse vincere Bersani e ci fosse Berlusconi, per esempio, lei come si approccia alle prossime politiche? Renzi che farà? Aiuterà Bersani? Sì, certo. Aiuterà Bersani e io aiuterò Bersani, ci mancherebbe altro, nel senso che questa è la scelta che abbiamo fatto, è il partito in cui siamo e aver accettato le primarie significa accettare le regole, non è che uno se perde e poi va via, quindi questo è il minimo, ma non solo, noi cercheremo di lavorare attivamente perché il centro-sinistra vince le elezioni del prossimo anno. L'ultima domanda è questa: Renzi viene accusato spesso di essere un ottimo format televisivo, anche Aldo Grasso ha detto è uno splendido, fa una splendida campagna televisiva, ma i contenuti ce ne sono pochi, format ma pochi contenuti, come rispondere a queste critiche? Credo che chiunque si sia preso la briga di venire ad ascoltare Matteo in una delle tante tappe che ha fatto il giro per l'Italia o abbia speso un quarto d'ora leggendo il programma si sia reso conto esattamente del contrario, nel senso che abbiamo fatto un grande sforzo di elaborazione, di messa a punto di un'analisi dei problemi del paese e di una serie di proposte per cercare di risolverli. abbiamo forse molte più proposte, molti più contenuti di quanti non ne abbia disposti Bersani. Il problema è che appunto spesso i pregiudizi si affermano al di là della realtà. Io intanto la ringrazio, staremo a vedere, mancano 4 giorni e ormai siamo alle battute finali. Grazie a Giorgio Gori per essere stato con noi. Noi ci dobbiamo fermare qualche minuto per la pubblicità in meteo, poi avremo ospite un deputato che da 85 giorni sta facendo lo sciopero della fame perché protesta contro la mancata riforma elettorale. Verrebbe da dire, chi mi segue su Twitter sa che ogni settimana aggiorniamo partendo da un dato enfatico, ovviamente enfatizzato, dicendo che siamo arrivati ormai a 95 settimane decisive, la 95esima settimana decisiva per la riforma elettorale. Pare che non sia decisiva neanche questo, forse la 96esima ce la faranno, che poi è la prossima. Vi dico anche che l'abbiamo chiamato questa mattina, dovrebbe essere con noi, ci ha detto che ci darà qualche minuto, alle 8.45 il sindaco di Taranto, Ipazio Stefano, perché a Taranto ovviamente dopo la chiusura dell'Ilva c'è una situazione anche di rischio di tensione sociale non indifferente. Allora, si potrebbe parlarne, se ne potrebbe parlare in termini anche un po' ironici, irriverenti, come faccio io sul mio profilo Twitter Alino Milan, se volete andare a seguirlo, quando ogni settimana dico e siamo arrivati in questa enfaticamente alla 95esima settimana decisiva per la riforma elettorale. Ma pare che anche questa settimana si concluderà con un nulla di fatto. Ieri è stata sconvocata la Commissione Affari Costituzionali, non ci sono i termini per un accordo e allora forse la settimana decisiva sarà la prossima, la 96esima. Ieri Roberto Calderoli ha definito così con una metafora: siamo in sala parto per la riforma elettorale, ma è un parto podalico e bigemellare. Come dire, lievemente complicato. In realtà c'è chi l'ha presa molto sul serio, la sta prendendo molto sul serio, è un deputato, Roberto Giachetti del Partito Democratico, che saluto, buongiorno onorevole Giachetti, eccoci qua. Buongiorno a voi. L'onorevole Giachetti che da quanti giorni sta facendo un digiuno voglio sperare non completo, non totale, perché altrimenti non sarebbe qua a parlarci, da quanti giorni lei digiuna? Sono 86 giorni con 3 cappuccini al giorno. 86 giorni, 3 cappuccini al giorno, sciopero un po' radicale, insomma, che ne proviene anche da questa sua storia anche politica. Sì. Lei è un deputato del Partito Democratico, perché sciopera? Sciopera contro il Porcellum, cioè vuole che venga fatta questa riforma elettorale. E perché non si fa? Ci sveli questo mistero. Sì, guardi, in realtà vorrei dire che io il mio sciopero va addirittura, se possibile, oltre. Cioè io penso che il problema dello screditamento della politica non si possa relegare, magari per comodità, e semplicemente agli epifenomeni di degenerazione che riguardano i Lusi, Fiorito e via dicendo. Io penso che la politica stia consumando la sua credibilità nel tempo anche per le troppe volte nelle quali parla, crea aspettative nelle persone, negli elettori, e poi non mantiene le promesse. Tipo la settimana decisiva, anche lei l'ha sentito dal Parlamento. Divertito come lei, nonostante tutto, ho fatto una cosa su YouTube di un'ora, datata un mese fa, nella quale semplicemente leggo i titoli delle agenzie con le dichiarazioni di tutti i rappresentanti dei partiti, dicendo, e ci ho messo un'ora per raccontare, l'ho chiamata Tarantella Politica. Quindi la trovate così su YouTube, immagino, Tarantella Politica. Tarantella Politica, sì, ma è un'ora forse un po' noiosa, sì. No, non è noiosa, però è divertente perché c'è di tutto e ogni giorno siamo pronti, siamo arrivati, è un momento di difficoltà, poi ci sono tutte le battute, oggi ieri era il premietto, il tombolino e via dicendo. Sembra quasi che ci si diverte così, non tenendo conto che c'è un problema, che la gente si aspetta da noi che in 10 mesi, da quando la Corte Costituzionale ha bocciato il referendum, sì, dando anche delle indicazioni, diciamo, di percorso, tutti ogni giorno hanno dichiarato che questa legge andava cambiata, questo è il motivo che bisogna far tornare gli elettori a scegliere i propri rappresentanti, salvo il fatto che poi il giorno dopo non si fa quello niente. Che si era fatto. Però guardi, il mio sciopero della fame, mi fermo scusi, è innanzitutto per questo, perché io chiedo che la politica rispetti i suoi impegni, poi io ho la mia idea di riforma elettorale, ma non mi pretendo di farla passare con uno sciopero della fame. Lei quanti chili ha perso negli ultimi 84 giorni? Guardi, credo 18 ormai. Quindi. 18 chili. Però guardi, lei leggo un titolo del Sole 24 Ore di oggi, a pagina 20, Berlusconi punta sul Porcellum, perché per fare, se vuol fare, la nuova Forza Italia, eccetera, potrebbe essere in realtà la forma elettorale più comoda per mettere in Parlamento quelli che vuole, come è successo per tutti la scorsa legislatura. Ma infatti io non ne dubito, il problema è che più in generale, se noi continuiamo, soprattutto su leggi così importanti che regolano anche comunque la vita democratica di un paese, a fare ragionamenti e conti esclusivamente sulla convenienza del momento di questo o di quell'altro partito, veniamo meno, a mio avviso, alla nostra missione, che nel momento in cui siamo caricati di una responsabilità politica, lo siamo sicuramente per portare avanti le nostre battaglie, ma lo siamo anche per dare un contributo all'Italia per un cambiamento reale. Se è vero come è vero che tutti sostengono che non sarà la sola, ma questa legge elettorale, col modo attraverso il quale seleziona la sua classe dirigente, è una delle concause per cui c'è stato sicuramente un peggioramento della qualità anche della responsabilità collettiva. Senta, però adesso, ironia a parte, pare che questa possa essere una settimana davvero decisiva, tanto che lei ha ipotizzato anche la possibilità di interrompere questo sciopero. No, guardi, io lo interrompo solo perché oggi ho un esame clinico delicato e se mi dicono i medici che siccome io non ho nessuna intenzione di fare né il martire né l'eroe, ho cercato di accompagnare incoraggiandola alla forza di cambiare, ma è chiaro che non voglio pregiudicare gravemente la mia salute. Se i miei medici mi dicono oggi devo fare questo esame, se mi dicono che le condizioni non mi consentono di andare avanti, ovviamente dovrò trarne delle conseguenze, però mi permetto di contraddirla, nel senso che è vero che si dice che potrebbe essere la settimana prossima e come lei diceva è quello che sentiamo ormai da un anno, ma il problema è che ci sono anche dei tempi, cioè deve essere chiaro a tutti noi che se il Senato non chiude questa settimana e ce lo dà la prossima, cioè la prima settimana di dicembre, noi abbiamo sostanzialmente un mese, compreso Natale, Capodanno, eccetera, eccetera, per fare tutto cioè alla Camera. C'è la legge di stabilità, le province. Ma ci sono la delega fiscale, ci sono tutte le cose per cui ieri, l'altro giorno, anche il Sole 24 Ore metteva in evidenza quali fosse l'ingorgo istituzionale, la preoccupazione di tutte le istituzioni. In tutto questo tenga conto che c'è un piccolo particolare, che se la legge ci viene data com'è stata approvata nei primi articoli dal Senato, ci arriva con le famose preferenze. Alla Camera le preferenze si votano a scrutinio segreto. Tutti, ma veramente tutti, dicono e sanno perfettamente che a scrutinio segreto, anche a sentire la volontà di Berlusconi, le preferenze verrebbero abrogate alla Camera, il che significa che la legge è morta. Insomma, l'ottimismo non c'è molto, ma lei è vero che ha detto soprattutto il mio partito, il Partito Democratico, dal mio partito ho avuto quasi indifferenza totale, anzi non ostracismo, ma che vuol dire? Che anche il PD sotto sotto vuole il porcellum? No, guardi, distinguiamo, perché se io devo fare una valutazione sulle mail che ho ricevuto, i tweet, tutte le comunicazioni, diciamo, della base del Partito Democratico, posso assicurarle che mi potrei sentire Napoleone. Il problema è i dirigenti. Sì, appunto, esattamente, la classe dirigente del Partito Democratico, indubbiamente, salvo alcune eccezioni, adesso non mi metto a dire questo o quell'altro, ma sicuramente simboleggiata, purtroppo lo dico, dalla segretaria del mio partito, sono stati totalmente, mi hanno totalmente ignorato e addirittura uno dei giornali del mio partito, cioè l'Unità, non ha mai pubblicato una riga in 84 giorni di digiuno sulle ragioni della mia iniziativa, ma questo, diciamo, è un fatto che ovviamente per me ha un peso politico, non è certo un problema personale, umano, che per carità nella politica possiamo pure lasciarli da parte. No, ed è abbastanza significativo. Io imputo al Partito Democratico, per esempio, che nel momento in cui ci fu la provocazione da parte del PDL con quegli emendamenti di dire facciamo la riforma semipresidenziale e insieme il doppio turno alla francese, io penso che noi in quel caso dovevamo andare a vederlo quel blef invece di tirarci indietro e alzare le barricate, poi magari per metterli all'angolo dopo, però abbiamo solo perso un'occasione per trovarci forse oggi in una condizione. Senta, ma che le dicono in Parlamento? Beh, lei è da 85 giorni in digiuno, che le dicono? Ma che fa? È un matto, Giachetti? Ma... sì, no, guardi, il motivo vabbè, ma dai, smettila, trova un altro modo. Io dico a tutti, guardate, io non è che pretendo che voi utilizzate il mio modo. Io penso di avere il privilegio, essendo una persona che fa politica da tanti anni, sta in Parlamento da 10, non da 30, però ho il privilegio e la fortuna di poter fare quello che credo sia il massimo che una persona che fa politica può fare, e penso che sia un onore, ma sia anche un onore, nel senso che io non sono un qualunque cittadino che sta per strada e deve guardare a questo spettacolo senza fare nulla. Io penso che ciascuno di noi che ha una responsabilità, anche se conta uno su 630 ha il dovere di fare qualcosa in una situazione del genere, e per quanto mi riguarda io ho detto a tutti, io faccio questo perché fa parte della mia cultura, voi non fate questo ma fate qualcos'altro perché comunque ci sia una spinta, cioè tipo fate la riforma elettorale, per esempio scrivete, cantate, giocate, non so, fate quello che volete, sempre che uno la voglia fare, perché siamo sempre lì, esatto. forse questa legge elettorale tutti la definiscono una porcata al porcellum, però forse è quella meno scomoda. Ma che cosa a lei non piace? La prima cosa che non piace del porcellum, le liste bloccate? Beh, ecco. Certo che non mi piacciono le liste però bloccate. Però sa che le preferenze per molti sono quelle che hanno portato Fiorito. Ma infatti io avrei voluto che il mio partito facesse con più convinzione la battaglia sulla proposta che abbiamo deciso in Assemblea Nazionale, che è la proposta ufficiale del Partito Democratico, che ho sentito Bersani dirà riproporremo nella prossima legislatura, e che è il doppio turno alla francese. Io penso che i collegi siano sicuramente il modo migliore attraverso il quale selezionare la classe dirigente. Purtroppo, diciamo, le preferenze, chi non se le ricorda 30 anni fa ha avuto un esempio recente di che cosa comportano, per cui è chiaro che, diciamo, dal mio punto di vista io ho un'idea molto chiara, ma queste cose si realizzano in Parlamento. Purtroppo siamo stati troppo dentro le stanze segrete dei partiti a discutere, a mediare al ribasso, e alla fine ci troviamo in una melma, in una palude dalla quale ne usciremo comunque tutti, paese ovviamente in prima fila, con una situazione di stallo che certo non aiuterà. Ma faccia un pronostico per concludere, cioè faranno una legge raffazzonata, faranno come il porcellum qualche anno fa, cioè in 3 giorni lo fanno e sarà una porcellum bis, una porcata? Allora, adesso ormai i tempi per una dignitosa riforma elettorale che abbia il diritto di essere chiamato tale non ci sono. Si può fare un lifting del porcello, ma mi pare che non sono in grado di fare neanche questo, perché se rinviamo di un'altra settimana, se vuole ci possiamo risentire il giorno in cui c'era la scadenza legislatura. Mi inquieta il lifting del porcello, che è una scrofa. Diventerà semplicemente, forse sarà portata quella correzione che indicava anche la Corte Costituzionale, cioè uno sbarramento per ottenere un premio di maggioranza, che è una cosa naturale, sulla quale peraltro siamo sempre stati tutti assolutamente d'accordo, e non più d'altro, perché però ripeto, prima invece la legge con le preferenze, vedrà che viene bocciata la Camera e non ci saranno più tempi per fare alcuna legge, a votare col santo porcello. Io intanto la ringrazio, adesso vedremo oggi cosa le dirà il medico. Grazie Roberto Giachetti. Grazie a voi, con noi Partito Democratico, da 85 giorni in sciopero della fame per cambiare la riforma elettorale. Siamo in collegamento con il sindaco, che ringrazio, Ipazio Stefano. Sindaco, buongiorno. Buongiorno a lei, grazie dell'attenzione per Taranto e buongiorno agli ascoltatori. Senta, intanto la situazione l'abbiamo sentita anche dal nostro inviato Maugeri, che insomma gli operai non possono lavorare da oggi, però sono all'interno dell'azienda, insomma si sono in qualche modo tra virgolette appropriati. Un primo commento su qual è la situazione, lei da primo cittadino cosa teme in questo momento? Temo per la sorte dei lavoratori, temo perché i lavoratori fino a questo momento, cioè da oggi, hanno perso lo stipendio, quindi temo per loro, per le loro famiglie e per la città di Taranto, e di conseguenza temo per eventuali, voglio dire, blocchi nella città che porteranno ulteriore disagio anche agli altri cittadini. Quindi oggi tutti i tarantini sono vicini ai lavoratori dell'isola. Lei come giudica la mossa della procura? Perché il ministro dell'ambiente Clini è stato molto chiaro a dire chi si assume questa responsabilità di questa decisione ora si deve assumere la responsabilità delle conseguenze. Ma guardi, io non giudico, come è giusto che sia, l'azione della magistratura, anche perché bisogna tenere presente che cosa ha fatto scattare questo comportamento della magistratura. Certamente la non risposta da parte della famiglia Riva, nel senso che c'erano delle prescrizioni, queste prescrizioni non sono state rispettate e la magistratura impone il rispetto. Però guardi, in questo momento la situazione è drammatica, perché in attesa che questi problemi, guardi, i problemi sono così gravi e complessi, perché come lei ha detto c'è un problema fra, diciamo, di interpretazione delle norme, naturalmente, non di scontro voglio dire istituzionale, ma di interpretazione delle norme fra la magistratura e il governo. È evidente che c'è tempo, ci sarà tempo perché si esca da questo tunnel. Io mi auguro in maniera positiva, cioè coniugando e facendo le cose che la magistratura chiede per tutelare la salute, il diritto alla salute dei cittadini e naturalmente tutelare il lavoro. Però la parte più fragile in questo momento sono i lavoratori che hanno perso lo stipendio. Sì. E voglio ricordare. Ma lei cosa chiede? Per esempio, giovedì c'è un incontro con le parti sociali, chiede la riapertura, chiede alla famiglia Riva, ai proprietari, la riapertura dello stabilimento. Questo abbiamo chiesto a Monti di fare questo. Questo è compito del governo. Solo l'autorevolezza del governo può trattare con la famiglia Riva, sono competenze a livello nazionale, questo noi non l'abbiamo chiesto oggi, io personalmente l'ho chiesto un mese fa per iscritto, quando ho chiesto l'incontro a Monti e quando 15 giorni fa l'ho sollecitato e ha avuto l'incontro con il ministro Clini, abbiamo detto queste cose, tenevamo queste cose, oggi noi siamo trepidanti per la sorte dei lavoratori. E questo sì, però e l'azienda dice noi ci siamo impegnati a seguire quello che il ministro dell'ambiente aveva stabilito con il nuovo documento del rispetto dell'ambiente, stavamo perseguendo questa linea, è chiaro che questa decisione della magistratura ci blocca in questo percorso e dunque si arriva alla chiusura. Verrà sbloccato sicuramente. Comprendendo bene i suggerimenti della magistratura o le ordinanze della magistratura e comprendendo bene le azioni del governo che dovrà, ripeto, a livello nazionale sbrogliare questa matanza. Il problema però è immediato, i lavoratori non possono perdere lo stipendio, la riunione che avremo giovedì, e questo ci conforta, da noi che avremo col governo, i sindacati a livello nazionale, io chiedo che la presenza anche dell'INPS, perché si possa immediatamente garantire a fine mese la cassa integrazione. Lei vuole un anticipo di cassa integrazione per non lasciare neanche il primo mese senza stipendio nessuno. Sì, perché già da mesi i lavoratori sono in... Guardi, abbiamo avuto 4 incidenti in questi mesi, perché i lavoratori sono fortemente stressati per l'incertezza del presente e del loro futuro. Senta, c'è anche una cifra di quello, io non so se lei la sa a memoria, di quanto è, di quanto bisognerebbe dare per garantire subito lo stipendio ai 5.000 lavoratori dell'Ilva? Questo calcolo sinceramente non l'ho fatto personalmente, ma credo che... Comunque lei chiede questa cosa. Io chiedo questa cosa, perché è un diritto, non è che chiediamo una concessione. Sì. E sono lavori per lavoratori che hanno lavorato e che lavorano in condizioni veramente, voglio dire, stressanti anche dal punto di vista ambientale, e dopo tanto stress non è giusto che in 24 ore perdano il diritto ad avere il giusto, quello però, che gli è dovuto. Sindaco Stefano, le chiedo questo: nell'ipotesi della magistratura ci sarebbe stata una rete molto fitta di rapporti tra i responsabili dell'Ilva, i responsabili dei rapporti istituzionali Archinà e molti politici, è anche finito lei nelle carte come telefonate eccetera, relazioni. Sì, glielo spiego subito. Lei sentiva mai Archinà o comunque un rappresentante dell'Ilva? Allora, quando io, naturalmente quello era il periodo proprio clou della indagine, io sono andato in procura a chiedere come mi dovessi comportare, perché il procuratore ci aveva scritto una lettera dicendo attuate ogni cosa che è nelle vostre possibilità. Io dopo aver attuato tutto quello che era nelle possibilità del comune, che come lei ben sa tra l'altro in questo campo ha poca competenza, perché le competenze in materia ambientale sono della regione, della provincia e del governo soprattutto, io dopo aver preso dei provvedimenti chiaramente a livello ambientale, sono andato per dire adesso questo ho fatto fino a questo momento. Poi ho chiesto, posso io parlare con l'impresa? Quindi io ho chiesto proprio il permesso. Alla procura di parlare con... E mi ha detto certo che devi parlare, perché devi parlare in quanto tu sei rappresentante della città e devi concordare. Quindi lei dice io sono finito nelle carte, ma la procura sapeva che io mi stavo muovendo così. Tanto è vero, guardi, che uno dei nemici così definiti dai mezzi di informazione, tra virgolette, dell'Ilva è l'ARPA. E io nella intercettazione dice Archinà, perché io chiedevo ma com'è il livello del benzapirene, ma a che cosa avete fatto, che cosa state facendo, chiedevo informazioni per poter agire, e mi ha detto devi rivolgersi al presidente dell'ARPA. A proposito del presidente dell'ARPA, le chiedo anche questo, anche se non può lei rispondere, ma non può rispondere lei per Nichi Vendola, però glielo chiedo perché fa parte della sua stessa coalizione politica. Nichi Vendola è accusato dai giudici di aver fatto appunto pressioni per cambiare i vertici vertici dell'ARPA che secondo l'accusa non erano diciamo vicini, molto vicini all'ILVA. Lei metterebbe la mano sul fuoco sulla correttezza del governatore Vendola? Allora guardi, io le dico due cose che sono atti oggettivi. Io per la prima volta nella storia di tanto ho fatto pagare le tasse correttamente all'ILVA. Due, io ho fatto l'esposto nel 2010, adesso per rispondere al problema di Vendola, beh, le pressioni non hanno avuto effetto perché il Giorgio Assennato è ancora lì, il professore Giorgio Assennato, che era quello che chiedevano, da quello che dicono, perché io non lo so questo, che chiedevano di trasferire, è ancora lì, quindi evidentemente queste pressioni sono rimaste inascoltate. Sono fatti oggettivi, non sono interpretazioni. Sì. Sono fatti. Comunque lei, sindaco, per concludere, la ringrazio, chiede questo, insomma, che il governo metta a disposizione i diritti ai lavoratori tutti. Poi garantisca gli stipendi anche con l'INPS che partecipi certo, giovedì alla riunione. Teme anche, glielo devo chiedere, teme che possano esserci anche dei problemi dal punto di vista della tenuta sociale di tensione? Guardi, se il governo giovedì varerà questi provvedimenti, io penso di no, perché sono persone abituate a lavorare duro, perfetto, a lavorare in fabbrica, sono persone che si sono guadagnati lo stipendio, che non hanno mai pensato di vivere per essere con il sussidio, ma sono persone che hanno sudato, hanno rischiato, ricordo gli infortuni in fabbrica, hanno lavorato duramente per guadagnarsi lo stipendio. La ringrazio molto, sindaco, monitoreremo ovviamente la situazione. Il sindaco di Taranto, Ipazio Stefano. Noi ci fermiamo qui, l'appuntamento è rinnovato a domattina alle 6.30. Volete dire la vostra? 02 4652 4492. Chiamateci e parlate con la segreteria telefonica di 24 Mattino. 02 4652 4492. E ricordate, Alessandro Milan vi ascolta.